In pratica la Giunta ha approvato una delibera che dovrà essere votata in Consiglio Comunale, immagino lunedì prossimo, questo almeno dalle notizie, in cui si per la prima volta in tanti anni in questa città la scuola comunale dell'infanzia non è più gratuita, perché viene eliminata la parolina, no? In cui si dice la scuola dell'infanzia è più gratuita per tutti. Si dice però che si applicherà, si pagherà un'imposta, una TA di frequenza, che sarà esattamente uguale al costo della refezione. Questa è la novità, che però non è una novità, perché in commissione consigliare l'altra settimana questa cosa era già stata detta, e quindi io credo che pensiamo che l'accordo fatto tra la Giunta e CGIL e CISL sia il solito teatrino, diciamo, no? Il solito teatrino in cui loro hanno battuto un po' i piedi su questa cosa, e poi hanno la Giunta, insomma l'amministrazione, ha detto che il costo della refezione, il costo della tassa è uguale a refezione, che il costo rimane uguale come prima, non cambia niente, e quindi hanno firmato l'accordo. Noi abbiamo detto che non condividiamo assolutamente, perché mettere una tassa, un'imposta di frequenza nella una scuola pubblica vuol dire assimilarla a una scuola privata, visto che fino adesso la scuola era gratuita per tutti, mentre la refezione viene pagata se il bambino mangia a scuola. Comunque, se non mangia perché non se lo può permettere, perché per altri motivi, io questo problema l'ho anche portato come SGB alla commissione, dicendo che a Bologna ci sono 40 famiglie i cui bambini vengono portati a casa prima del pasto. Mi hanno detto che, insomma, per quei casi lì ci sono altri strumenti per non far pagare la refezione. Comunque, insomma, il problema c'è. Per noi la scuola deve essere gratuita per tutti, e questo accordo fatto con CGIL e CISL e UIL mette in discussione questo principio. Il principio che fondamentalmente sarebbe quello che la scuola è un diritto, mentre la mensa era considerata un servizio. Appunto, la mensa, cioè la scuola è un diritto e la refezione è un servizio che si paga. Che si paga se la si utilizza e non si paga se non la si utilizza. Se diventa invece una tassa di frequenza, cosa succede? Chi non usufruisce della refezione cosa fa? Paga, non paga? Parliamoci chiaramente, al di là di questi che comunque sono dei problemi pratici, sono degli aspetti del problema, noi abbiamo sempre sostenuto la scuola pubblica, come abbiamo fatto durante il referendum, che è stato praticamente ignorato dalla Giunta Merola, la prima Giunta Merola, e oggi abbiamo la dimostrazione che questa Giunta sta facendo delle scelte politiche, e comunque noi non riteniamo che questo accordo sia è inaccettabile, e continuiamo a dire che bisogna ritirare quella delibera e non modificarla scrivendo che la tassa che si vuole introdurre sarà uguale al costo della refezione, che non cambierà mai. Sono delle dichiarazioni che non sono neanche sostenibili. Cosa vuol dire che la refezione non cambierà? E se poi cambia? Cioè, perché chi l'ha detto che rimane sempre uguale? E comunque noi non solo non condividiamo, e quindi che continuiamo a chiedere il ritiro della delibera, come ho detto anche in commissione l'altra settimana. Aderiamo alla petizione, che mi sembra stia andando molto bene, perché comunque sono già state raccolte tantissime firme. Per l'ennesima volta CGIL, CISL e UIL fanno, ma CGL, perché è quella che, diciamo, si è opposta a questa cosa, fa il solito teatrino per poi sostenere la Giunta, alla faccia dei cittadini, alla faccia della scuola pubblica, alla faccia delle lavoratrici. Questa è la posizione di SGB che abbiamo anche espresso, insomma, nel comunicato. Avevamo fatto anche un comunicato all'indomani, diciamo, di questa delibera, esprimendo la nostra contrarietà. Questa continua a essere la nostra contrarietà, perché non è cambiato niente. Non è che l'amministrazione è tornata sui suoi passi, ha solo modificato una roba che non cancella il principio di una scuola pubblica gratuita per tutti.